se mi rivolgo verso uno specchio non vedo solo il mio riflesso, scavo più a fondo, mi guardo dentro, afferro il mio mondo, me lo tengo stretto, la coscienza a posto pur con i miei sbagli, la vita è un'incoerenza fatta di dettagli, ritaglio un angolo nei miei pensieri, a volte piango se ripenso a come era ieri, ed ogni giorno cambio, ed ogni giorno arranco, ed ogni giorno mi sento più stanco, ed ogni giorno vorrei qualcuno al mio fianco, un giorno vedo nero e l'altro vedo bianco, non sono un santo, non sono un boss, ma mi faccio apprezzare per quello che posso, e non dimentico ciò che ho trascorso, se guardo le cicatrici che ho addosso, ma nel bene e nel male, ogni esperienza fa crescere, ogni dolore, ogni offesa morale, fortifica, aiuta a non cedere, in fondo cos'è l'esperienza se non la somma di tutte le inculate prese, è così, d'altronde rimane sempre più deluso chi c'ha più pretese, e se fotti il prossimo lui fotte te, ma se lo aiuti non ti ricambierà, puoi anche amarla questa vita, tanto non ti ripagherà, ma se mi rivolgo verso uno specchio, non vedo solo il mio riflesso, vedo un ragazzo che lotta ogni giorno e non si piega allo schifo che è intorno. E ogni giorno è una sfida contro me stesso, punto ad ogni traguardo che mi sono ripromesso, e ogni giorno do il massimo come fosse l'ultimo, non perdo un attimo perché so che è legittimo credere in un futuro, credere che prima o poi la gente si ricordi di ciò per cui lottavo. Non voglio certo entrare nella schiera degli eroi, ma solo lasciare un ricordo per non aver vissuto invano.